9 in punto. La politica nel tunnel. Però a me mi sembrano che questi partiti qua, tutti e tre, stanno giocando con le figurine. Te ne do due, me ne dai una, te ne do tre, te ne do due. Che la piantano di dire, lei non siamo qui mica a vendere le noccioline. Voi siete lì per noi, non per voi. Ma fate qualcosa in fretta, perché l'Italia sta morendo. E io sono uno di quelli. E va bene, sarà un mese e passa, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, che abbiamo messo all'inizio della nostra sigla le parole, lo sfogo di Angelo dalla provincia di Bergamo, e ancora si è mosso molto poco. Siamo al 51esimo giorno di ingovernabilità, il Sole 24 Ore oggi in edicola ci ricorda col suo contatore, forse vi darà un po' d'ansia, però serve a dare la misura di quello che sta succedendo nel paese, è importante. Col suo contatore oggi ci ricorda che nel corso della settimana appena passata, tra lunedì e venerdì, ci sono stati 280 fallimenti di aziende, insomma... Continuiamo a cercare di trasmettere quest'urgenza, insomma, se da questi microfoni capiamo che insomma non è un granché da questi microfoni, per carità, però insomma questa è un'urgenza che vogliamo cercare di trasmettere, lo facciamo quotidianamente, ricordandovi poi come ogni giorno alla fine della trasmissione il contatore, il nostro contatore verso l'aumento dell'IVA. Vi ricordo come potete interagire con noi, abbiamo da poco aperto la pagina Facebook www.facebook.com/9in.radio24, potete scrivermi su Twitter Simone Spezia, oppure potete chiamare, anzi è un piacere, 800 24 00 24. Oggi parliamo di un'agenda possibile di governo, di un'agenda possibile di governo economica, che è quella stilata dalle commissioni di lavoro istituite dal Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, propriamente dette dei saggi, non lo so, insomma non entro sulle qualità personali. Enzo Moavero Milanese, Ministro degli Affari Europei, buongiorno. Buongiorno a lei. E componente di questa commissione economica, saluto anche Filippo Bubbico, che anche lui ne è stato componente. Buongiorno Bubbico. Buongiorno. Saluto anche Giorgio Mulè, direttore di Panorama. Salve. Buongiorno. E benvenuto. Grazie. Iniziamo dal ministro Moavero. Ministro, allora io me le sono guardate queste 83 pagine, insomma, con magari non col grado di approfondimento di altri colleghi, però insomma me le sono lette. E ho notato però che c'è, in tutta sincerità, un guardare molto al nostro ombelico e poco a quello che veramente conta. Noi da questi microfoni più volte l'abbiamo ribadito, la questione europea da questo punto di vista è assolutamente centrale, e devo dirle la verità, ho trovato molti punti e spunti di agenda economica per il paese, non tantissimi appunto sull'azione europea dell'Italia. Che ci dice? Beh, l'azione europea dell'Italia si inquadra nell'azione dell'Unione Europea, la crisi colpisce tutti i paesi dell'Unione Europea e insieme, nell'ambito dei meccanismi istituzionali e di governo dell'Unione stessa, si stanno da quando è iniziata la crisi cercando di individuare le vie migliori per uscirne, e quindi ci sono una serie di cantieri aperti a livello di Unione Europea e molte decisioni sono state prese con la piena partecipazione dell'Italia e alcune anche su preciso stimolo dell'Italia. Pensiamo per esempio quando nel gennaio del 2012 l'Italia per prima prende l'iniziativa di contattare alcuni altri governi per portare avanti un discorso collegato alla crescita e all'occupazione, quindi non solo disposizioni che cercassero di ristabilire maggior rigore nella gestione finanziaria per dare maggior fiducia ai mercati, ma anche delle disposizioni che guardassero più avanti, guardassero verso la crescita, guardassero verso l'occupazione. E in questi mesi una serie di iniziative di questo tipo sono state aperte fino ad arrivare al marzo del 2013, in cui il Consiglio europeo, quindi la riunione di vertice dei capi di Stato e di Governo, chiarisce che quei paesi che hanno un deficit annuale che si situa al di sotto di quel livello del 3%, che è quello menzionato dai trattati come livello massimo di scostamento dal pareggio, possono fare in questo margine tra il pareggio di bilancio e il 3% degli investimenti produttivi, proprio al fine di creare condizioni di crescita dell'economia ed occupazione. Questi diversi cantieri, ne ho menzionati a titolo di esempio due, entrambi collegati alle due grandi priorità, proprio la crescita e la creazione di posti di lavoro, sono menzionati nel rapporto economico che in realtà non è di 83 pagine, quello della commissione che si occupava della componente economico e sociale, ma è di 50 pagine, poi ce ne sono circa 30 di appendice statistica, ci siamo contenuti rispetto al numero di pagine che purtroppo in questo genere di esercizi è necessario. Ecco, vorrei capire questo da lei: se vi pesa, lei fa parte di un governo che è in carica appunto per gli affari correnti, che non ha ancora ricevuto la fiducia dal Parlamento e probabilmente non la riceverà la fiducia dal nuovo Parlamento, quanto pesa tutto questo quando andate in Europa a trattare soprattutto su temi così importanti? Penso a Cipro, penso alla trattativa per esempio sull'evasione fiscale che ci sarà tra poco. Ma vede, le questioni europee, quindi gli adempimenti nel quadro proprio della partecipazione italiana all'Unione Europea, sono esplicitamente menzionati nelle disposizioni che regolano la gestione degli affari correnti e di un governo, e danno ai ministri e al governo, in contatto con il Parlamento, dei margini di manovra piuttosto ampi. Quindi non riscontriamo una differenza fondamentale rispetto alla fase precedente. È indubbio tuttavia che nelle altre capitali europee, nelle istituzioni dell'Unione Europea stessa, ogni qualvolta uno Stato passa attraverso una fase di elezioni politiche generali, si guarda immediatamente alla fase successiva, quindi alla formazione del governo che in maniera corrispondente alla volontà degli elettori dovrà essere formato. Le fasi transitorie non sono mai ideali, anche se proprio negli anni recentissimi uno dei paesi fondatori della Comunità Europea, all'epoca dell'Unione Europea, dopo il Belgio, ha avuto oltre 500 giorni di situazione di governo in affari correnti, non successivamente a due tornate elettorali. Quindi ci sono anche esempi ben più complessi e articolati di quello che noi in questo momento stiamo attraversando. Si faccia chiedere una cosa proprio brutale, Ministro, ma serve una nuova manovra? Perché qua se ne continua a parlare, si continua a dire ci vuole una nuova manovra, alcuni dicono 7, altri dicono 10 miliardi, i conti pubblici così non reggono, soprattutto dopo il decreto per i pagamenti alle aziende da parte delle pubbliche amministrazioni. Il ministro dell'economia Vittorio Grilli ha recentemente ribadito, anche questo fine settimana rientrando da un consiglio dell'economia e finanze proprio a livello di Unione Europea, che ritiene che non serva una nuova manovra. E la questione dei pagamenti alle imprese in particolare non è tale di per sé da determinare la necessità di una nuova manovra. Non dimentichiamo che questi pagamenti sono dei veri e propri debiti che le pubbliche amministrazioni centrali e soprattutto locali, regionali e locali, hanno nei confronti delle aziende che hanno effettuato lavori oppure hanno effettuato forniture nei loro confronti, e essendo dei debiti commerciali, dei debiti contrattuali, sono comunque e in ogni caso dovuti. Peraltro, come è stato chiarito nei giorni scorsi, la gran parte di questo ammontare di debiti che le pubbliche amministrazioni hanno nei confronti delle aziende è già computato nella parte di bilancio di competenza. Questo vuol dire che a livello dei rispettivi conti annuali sono già presi in conto. Avranno però al momento del pagamento, cioè al momento in cui passeranno, come si suol dire, in cassa, un impatto sul debito, in particolare sul debito pubblico dell'Italia. Quest'ultimo elemento ha formato oggetto di discussioni che si sono dipanate nel corso di svariati mesi proprio con la Commissione europea, in maniera da evitare che questo aumento di debito, che è determinato dal pagamento dei crediti che le aziende vantano nei confronti delle pubbliche amministrazioni, fosse considerato come un aggravamento del nostro debito pubblico, che già è molto elevato. E a questo siamo arrivati a una soluzione, per cui verrà naturalmente computato e contabilizzato come deve essere, ma considerato un adempimento una tantum, che tra l'altro deriva dalla piena adozione di una direttiva europea che stabilisce termini di pagamento a 30 giorni, direttiva che è in vigore in Italia dal 1 gennaio. Molto, molto brevemente, Ministro, le ultime due domande. La prima: è in salita, secondo lei, alla luce anche di tutto questo, la trattativa per l'uscita dalla procedura di deficit eccessivo? Sarà una trattativa difficile o è automatico? Non è automatico, non pensiamo che sia facile, ma non la definirei neppure in salita. Lo sforzo che è stato fatto nel corso di questi mesi, con la risposta del Parlamento e dei cittadini, ha rimesso in sesto le finanze e i conti pubblici del nostro Paese. In particolare, il nostro deficit annuale si situa, anche dopo il pagamento di al questi 2,9, debiti, sì, al 2,9, quindi al di sotto della soglia del 3%. Quindi noi guardiamo con fiducia a questa valutazione che la Commissione europea dovrà fare nel corso del prossimo mese di maggio. Certo, trattativa comunque non facile, come ci diceva. Ultima domanda: ma servirà qualcosa, e poi la domanda la farò anche a Filippo Bubbico, ma servirà a qualcosa questo lavoro che avete fatto alla fine oppure no? Perché molti dicono è stato fatto da Napolitano per temporeggiare sostanzialmente. Servirà qualcosa, Ministro? Vede, noi abbiamo lavorato sostanzialmente 8-9 giorni, abbiamo lavorato anche un buon numero delle notti di questi 8-9 giorni, e abbiamo cercato di mettere insieme, di riunire, di riepilogare in queste 50 pagine per la nostra parte economica e sociale le varie idee, proposte fattibili, possibili, agenda possibile, il titolo che noi abbiamo voluto dare al documento, che circolavano da tempo. Non abbiamo tirato fuori conigli bianchi dal cilindro, d'altra parte eravamo incaricati di facilitare un esercizio, qualcuno ha voluto definire il gruppo, come lei diceva prima, un gruppo dei saggi, nessuno pensava di avere incaricato dei maghi o dei prestigiatori, soprattutto non dei prestigiatori. Noi pensiamo che queste misure che abbiamo indicato e riepilogato facciano parte anzitutto in larghissima misura di un condiviso fra le forze politiche, e in secondo luogo siano tutte possibili, cioè concrete, effettivamente realizzabili. Parliamo di sgravi fiscali, non parliamo di una grande riforma del sistema delle tassazioni, però mirati alle famiglie, mirati a facilitare l'attività di ricerca delle imprese. Parliamo di una semplificazione delle procedure della pubblica amministrazione, di una maggiore trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione. Pensiamo in particolare a un rapporto tra cittadino, contribuente e fisco basato su elementi più trasparenti e più collaborativi, cerchiamo di esprimerlo con le parole fisco amico. Quindi una serie di elementi che secondo noi potrebbero essere realizzati, anche perché ampiamente condivisi. Con questi elementi che noi indichiamo, probabilmente non si cambia interamente la vita e la realtà del Paese, però si farebbe un passo avanti notevole, molti passi avanti nei diversi settori che abbiamo cercato di identificare. Grazie Ministro Moavero per essere stato con noi, Enzo Moavero Milanesi, Ministro agli Affari Europei, e buona giornata. Grazie, buona giornata. Saluto nel frattempo Luigi Casero del PDL, che è al telefono con noi, anche lui in diretta con noi. Buongiorno Casero e benvenuto. Buongiorno. Bubbico, le giro la stessa domanda, poi voglio sentire Mulè su questo. È servito a qualcosa e servirà a qualcosa quello che avete fatto? Perché insomma i dubbi ci sono oggettivamente. Ma io partirei da una considerazione: non mi pare che questo lavoro che è stato prodotto possa danneggiare la individuazione delle priorità e delle soluzioni che bisogna praticare immediatamente. Mi scusi Bubico, ci mancherebbe altro, se avesse pure danneggiato, insomma. Ma lo dico proprio per segnalare il paradosso di una discussione che si è prodotta in queste settimane, in questi giorni nel nostro paese. Sembra quasi che qualunque tentativo teso a svelenire il clima, a ricreare una condizione di dialogo, nel rispetto dei ruoli, nel rispetto delle posizioni di chi la pensa in un modo, di chi la pensa in un'altra, costituisca un attentato al clima di tensione che taluni vorrebbero mantenere all'ennesima potenza nel nostro paese. Semplicemente questo volevo osservare. E quindi non mi ha risposto, però, cioè serve o non serve secondo lei Io questo lavoro che avete fatto? Che questo lavoro possa servire, non che sia risolutivo per carità, possa servire perché si è verificato come attraverso il confronto, l'approfondimento, emergano delle priorità che io vorrei ascrivere anche alla logica di un interesse prevalente che debba prescindere dalle posizioni in conflitto, dalle parti che esprimono orientamenti e posizioni diverse. In buona sostanza, io credo che nel nostro paese sia importante riscoprire il valore dell'interesse generale. E allora in questo momento ci sono delle priorità rispetto alle quali è difficile che un diverso orientamento politico possa denunciare un maggiore o minore interesse. Poi la questione del governo è un'altra cosa. Quella è un'altra cosa, poi ci arriveremo. Giorgio Mulè, direttore di Panorama, sì. come la vedi tu? Ma io mi aggancerei a questa ultima osservazione che sentivo dal dottor Bubico sulle priorità, cioè il documento, i documenti che sono stati prodotti dai saggi elencano una serie di priorità. La natura di questi saggi era una natura di tipo propositivo, avendo essenzialmente il ruolo di consulenti o comunque di suggeritori, facilitatori, chiamiamolo come vogliamo. Bene, alle priorità che giustamente vengono indicate deve far seguito naturalmente il dovere delle scelte e quindi l'assunzione di responsabilità. Il dovere delle scelte e l'assunzione di responsabilità passano per il primato della politica, cioè le priorità vanno poi indicizzate e va data risposta a queste priorità attraverso una allocazione di risorse se ci sono, attraverso un piano progettuale se c'è. Quindi la politica è chiamata a decidere, assumendosi una responsabilità, sui vari temi messi sul tappeto. Allora, quello dei saggi è un essenziale, se vogliamo, esercizio della ragione, ma non ha alcun tipo di riverbero nella vita reale politica, nel senso che nessun governo, quale che sia, dovrebbe prendere in mano il lavoro fatto dei saggi. Lo può fare, lo può non fare. Quindi l'esercizio della ragione che è stato altamente patrocinato dal Presidente della Repubblica porta soltanto a una giusta elencazione, a mio avviso, di problemi sul tappeto, ma a nessuna risoluzione del problema. Allora il problema centrale è, e ho finito, la politica si riprenda in mano il boccino della realtà della società, faccia quello che è chiamata a fare dai cittadini, cioè dovere delle scelte e assunzione di responsabilità. Attraverso questi due passi si trasforma questo paese, e questo paese rimane fermo dov'è. Luigi Casero, PDL, chiedo scusa ai colleghi della regia se mandiamo lievemente in ritardo la pubblicità, però so che Casero ci deve lasciare alle 9.40, vorrei sentire una sua valutazione, anche capire se secondo lei, le chiedo di essere abbastanza rapido, o se secondo lei alcune delle proposte contenute in questo documento, che oggettivamente mi sembrano di buon senso, così come a Giorgio Mulè, dalla mia posizione, molto più umilmente ho trovato le proposte di buon senso, possono entrare in Parlamento già ora, a breve, pur in questa situazione politica così difficile, magari appena dopo l'elezione del Presidente della Repubblica. Casero. Sì, guardi, due problemi. Le proposte sono quasi tutte di buon senso e raccolgono, diciamo, la sintesi di un dibattito presente nel Paese, quindi sicuramente proposte che possono essere utilizzate. Peccato che manchino di due elementi fondamentali, che sono gli elementi che servono in questo momento al Paese. Il primo è il tempo. Squinzi l'altro giorno ha giustamente drammatizzato la situazione dicendo cosa ci è costato questo ritardo nella formazione di un governo nel nostro paese in termini di prodotto interno lordo, vuol dire in termini di ricchezza complessiva. Il problema tempo deve essere affrontato velocemente, devono essere date delle risposte velocemente, e devo dire che la risposta di Bubbico, che dice sono cose utili, interessanti, ma sicuramente non hanno creato degli elementi negativi, dimostra quanto non si sia affrontato questo fatto. Cioè, soprattutto il fatto che ci sono date le risposte devono diventare immediatamente norme e leggi nel Paese. Il secondo tema l'avete toccato all'inizio, e il ministro Moavero ha svincolato il problema Europa. Il primo grande questione che deve essere affrontata da questo momento dal nostro Paese è quali politiche di crescita e di sviluppo devono essere intraprese in Europa. Purtroppo ci sembra che l'Europa stia tenendo una posizione tutta rivolta all'austerità, seguendo una linea tedesca e non una linea degli altri paesi. Questo è il primo tema che il nuovo governo dovrà affrontare in Europa, andare in Europa e cercare di sostenere le ragioni del nostro paese, le ragioni di sviluppo del nostro paese. Troppi disoccupati, troppi cassi integrati, troppa carenza di lavoro, questa è la priorità che deve essere affrontata dal nuovo governo, dal paese. 9 in punto. Vado da Casero, poi, che poi ci deve salutare, e poi sentiamo qualche ascoltatore. Io quello che ho notato in questo documento, in realtà, Casero, è un'impressionante coincidenza sulle cose da fare, che trasversale tra PD, PDL, persino cose che potrebbero piacere al Movimento 5 Stelle, insomma. Vedo molti ascoltatori che ci scrivono, si chiacchiera, non si produce niente, il mood è questo, lo sentite anche voi, perché comunque insomma un po' sul territorio ci state, insomma non è che si può fare qualcosa da questo lato, perché forse da questo lato proprio una risposta netta non me l'ha data, portare in Parlamento queste cose, alcune di queste cose. Guardi, c'è la necessità è sì portarle in Parlamento, ma fare un governo. Come dicevo prima, la prima vera obiettivo che abbiamo è che un nuovo governo vada in Europa e concordi i nuovi livelli su cui l'Italia deve interagire con l'Europa stessa. Sui pagamenti della PA, guardi, c'è stata una situazione abbastanza scandalosa. Tre settimane prima dell'approvazione del decreto, forse anche a fronte della crisi finanziaria di Cipro, della turbolenza finanziaria in Europa, la comunità ha permesso all'Italia di pagare i debiti della pubblica amministrazione, cosa che ricordiamoci non avveniva nel passato, quindi di fare debito per pagare questi debiti. L'Italia ha predisposto il decreto, è partita. Due giorni prima, il giorno prima dell'approvazione del decreto, arrivò una richiamo di OnlyRent dicendo sì, però non dovete uscire dal 3%, cosa che stanno facendo tutti i paesi europei. Ricordiamoci che la Francia sta oltre il 4%, la Spagna sta all'8%, questo richiamo al 3% è servito per riazzoppare il decreto stesso. Ecco, tutti, ricordiamoci che noi parliamo di percentuali, ma se pagare 40 miliardi o pagarne 60 vuol dire 200-300 mila posti di lavoro in più nei prossimi anni nel nostro paese, quindi sono dati reali che colpiscono veramente la gente. Ecco, quindi è giusto che il Parlamento affronti questi temi e li approvi, è giusto anche che si ponga fine, noi lo stiamo dicendo da tempo, a questo continuo balletto sulle cifre europee, per cui al nostro paese deve essere data la possibilità di svilupparsi nei prossimi mesi con tutte le potenzialità che ha il nostro paese stesso. Questo è. Grazie Casero per essere stato con noi, sentiamo qualche ascoltatore, innanzitutto Rino dalla provincia di Venezia, buongiorno. Buongiorno. Prego. Ecco, io Innanzitutto vi ascolto tutte le mattine. Questa mattina ho sentito Bubico che ci ha fatto la solita filastrocca, cioè ci ha raccontato che diranno, che faranno, che vedono, che hanno visto. Ma il mondo reale nel quale credo tutti noi viviamo ha bisogno oggi in Italia di azioni concrete ma immediate. Perché se aspettiamo ancora un poco per far guarire il malato, probabilmente il malato ci muore e noi siamo quelli che muoiono, quelli che voi tutte le mattine ci fate sentire quel slang di quel signore di Bergamo che focalizza velocemente quello che è. Cioè i saggi e tutti quelli che ci ruotano attorno, secondo me, si devono rimboccare le maniche, ma agire subito, perché se continuiamo a fare proposte che poi verranno discusse, che poi verranno viste, che poi verranno riguardate, alla fine noi ci lasciamo le penne. Purtroppo la nostra situazione è questa, quindi io contesto apertamente questo modo di continuare a raccontare le cose ma a non agire. Oggi abbiamo bisogno di gente che faccia, che agisca. Grazie Rino, e giro subito la sua telefonata, il suo intervento accorato proprio a Bubico. Insomma, vogliono sentire, vogliono fatti, anzi non vogliono sentire, vogliono fatti. Ma come si fa a dare torto al radioascoltatore, a Rino? E però bisogna anche capire come possa essere possibile agire immediatamente. Noi abbiamo un problema, le elezioni ci hanno consegnato un risultato che è paralizzante di fatto. Nessuna forza ha i numeri sufficienti per governare. Si tratta di capire come possa essere possibile in una situazione di questo genere evitare pasticci, evitare confusioni e assicurare un governo al paese. Allora detta brutalmente, penso... Bubico, detta brutalmente, ma lei, che è anche un esponente PD... Il governissimo lo farebbe col PDL oppure io no? Io non lo farei il governissimo per una semplice ragione, perché come è già stato detto, da questa situazione si esce facendo scelte politiche. Siamo a favore dell'equità, siamo a favore di un'azione tesa ad evitare situazioni di abuso, di sperequazione, vogliamo contrastare l'evasione fiscale. Da dove riprendiamo i soldi? Vanno fatte delle scelte. E fare delle scelte significa assumere un orientamento politico che un governissimo non può assumere. Lo abbiamo visto nel governo Monti. Il governo Monti era sostenuto da tutte le forze, le grandi forze, i grandi gruppi parlamentari. Sono state fatte delle scelte, è stato evitato il disastro finanziario del paese, ma chi ha pagato di più? Chi poteva sostenere un maggiore sforzo o i ceti medi che hanno subito un processo di impoverimento? A chi è stato chiesto il sacrificio maggiore per evitare il fallimento dell'Italia? Proviamo a chiederlo in giro, chiediamolo a Rino, chiediamolo agli artigiani, chiediamolo ai piccoli imprenditori che rischiano la chiusura, spesso chiudono le proprie attività per l'impossibilità di procedere. Quindi il governissimo rappresenterebbe la soluzione peggiore, perché non ci metterebbe nella condizione di scegliere. Bisogna capire in che modo venire fuori da questa difficoltà. Nessuno ha la bacchetta magica. Ma lei un'idea ce l'ha? Lei un'idea ce l'ha, Bubico, di come se ne esce da questa cosa? Perché noi telefonate come queste ne riceviamo quotidianamente e tante. Il contatto col pubblico è forte. C'è gente che mi scrive, artigiani che dicono: ragazzi, sono stato costretto a chiudere, avevo una partita IVA. Ma anch'io incontro continuamente imprenditori, cittadini che mi dicono: fate presto, costituite un governo. E quando dico: allora lo facciamo tutti insieme, mi si risponde spesso: no, con quelli che hanno generato il disastro no, bisogna introdurre fattori di equità, di equilibrio. Il ceto medio si sta impoverendo, l'evasione fiscale può essere ancora tollerata? Possiamo ancora annunciare condoni? penalizzando la fedeltà fiscale. Cosa dice l'artigiano che ha pagato sistematicamente le tasse di fronte all'annuncio di un condono tombale? Qual è il segnale che si lancia al paese? Giorgio Mulè, non riesco a vedere la via d'uscita da tutto questo, vedo un arrocco da tutte le parti e ripeto, come dicevo a Bubbico, continuiamo a ricevere telefonate, email, messaggi su Facebook, su Twitter di questo tipo. È la copertina anche di Panorama di questa settimana, cioè il calvario degli imprenditori, dei liberi professionisti, quello che diceva Rino, il fatto che ogni 15 minuti in questo paese chiudono 10 imprese e un negozio, che vengono licenziati 28 lavoratori, che l'economia sommersa fattura 15 milioni di euro. Potrei continuare a elencare dati, ma non è utile. È utile riflettere sul momento in cui al primato della politica, di cui parlavamo prima, è entrato invece l'egoismo della politica, e l'egoismo, mi spiace, lo dico con grande rispetto, porta a quello che poco fa sosteneva il professor Bubbico, cioè che no al governissimo perché c'è una distanza siderale, o almeno può esserci una distanza siderale tra quello che vogliono le parti o quello che vorrebbero fare le parti in causa. Io dico no. Non è così, perché sull'equità, sull'abuso, sulla sperequazione, sull'evasione fiscale non c'è differenza tra destra, sinistra, centro, estremi, grillini, eccetera. C'è comunità e c'è comune visione. Sull'IMU non c'è nessuna forza in Parlamento che non sostenga la necessità di intervenire, chi con una rimodulazione, chi con una cancellazione, ma che ci sia la necessità è condivisa. Allora non capisco perché, se i saggi possono mettere giù quel favoloso programma che la bella politica dovrebbe attuare, cosa impedisce alle forze responsabili di questo Paese di stilare 5, 6, 4 punti condivisi che di qui a 6 mesi facciano uscire l'Italia o la mettano a riparo dalle secche, non dell'austerità, della depressione, perché le imprese muoiono, perché i negozianti non ce la fanno più, perché il carico fiscale è una tortura, non è più sostenibile, un carico fiscale che è ben oltre il 50%. E allora si siedano, facciano la cortesia di fare l'interesse del paese, non l'interesse dell'egoismo della politica che porta a dire a Bersani non mi siedo con Berlusconi. Non è così che si salvaguarda l'interesse del paese. La responsabilità impone un passo indietro rispetto anche all'egoismo di una forza politica. 9 in punto. Brevemente, Stefano dalla provincia di Roma, buongiorno. Buongiorno, un saluto a tutti. Allora, molto brevemente, io ritengo che tutto quello che sta succedendo è colpa di tutti noi, cittadini italiani, soprattutto di quelli onesti che non si sono opposti a quello che è successo nell'arco degli ultimi 30-40 anni. Allora, molto rapidamente, bisogna fare due cose fondamentali. Uno, creare posti di lavoro per i giovani, perché io ho mio figlio che ha 14 anni e mezzo e già ha la valigia pronta, sta studiando lingue e ha detto che lui a 19 anni andrà via perché qui non ci vuole stare, e gli do perfettamente ragione. E un paese che viene abbandonato dai giovani è come cioè una nave dove quelli che devono remare si buttano a mare, quindi è chiaro. E poi bisogna fare due cose immediatamente: una lotta spietata, come si fa nei paesi seri, all'evasione fiscale e recuperare quindi fondi da investire per il lavoro, diciamo, nel turismo, nella cultura, nell'assistenza sociale, dove impiegare buona parte dei giovani, perché bisogna far capire ai giovani che serve anche lì. Stefano, le avevo chiesto brevità, secondi. Uno, una lotta all'evasione fiscale, una lotta spietata alla mafia, altrimenti non andiamo da nessuna parte, quello che diciamo è solo aria fritta. Grazie. Grazie Stefano. E qua però, Bubbico, a prescindere insomma dalle singole cose che dice Stefano, qua arriviamo a quello che secondo me è lo snodo, quello intorno a cui abbiamo girato fino adesso, e cioè, ma se questi punti sono talmente condivisi che sono stati elaborati in una commissione alla quale ha partecipato lei, ha partecipato un esponente del governo, ha partecipato un esponente del centrodestra nella figura di Giorgetti, leghista, ma insomma comunque sempre del centrodestra. Ma come mai queste cose non possono entrare all'ordine? Io non parteggio per nessuna delle scelte, cioè me lo chiedo proprio a rigor di logica, cioè come mai queste cose non possono entrare in un programma di governo condiviso anche di breve durata e che poi ci porti alle urne insieme magari ad una legge elettorale? Questo non riesco a capire. Beh, intanto bisognerebbe verificare che ci sia questa volontà da parte di tutti. Allora, si condivide il giudizio sulla priorità lavoro, sulla priorità lotta al fenomeno di povertà che sta investendo parti sempre maggiori della nostra società? C'è disponibilità ad avviare una lotta seria all'evasione fiscale e a premiare la fedeltà fiscale? Non mi pare che ci sia questo, anzi, proprio l'accusa, capisco, del dottor Moulet del prevalere dell'egoismo della politica è rappresentata e sintetizzata da questa ipotesi di grande coalizione. Grande coalizione per fare che cosa? Per ripetere tutte le scelte che ci hanno portati in questa situazione? Per bruciare risorse che avremmo dovuto e potuto mettere a disposizione della crescita e dello sviluppo? Io penso che in quel caso ci troveremmo di fronte all'egoismo della politica. Oggi serve responsabilità. Nessuno ha la maggioranza per formare un governo e tuttavia serve un governo. C'è un dovere, una responsabilità che deve assumere chi tra le minoranze ha i numeri maggiori per tentare la formazione di un governo e chi, non essendo minoranza assoluta, ma essendo molto prossima in termini di rappresentatività della volontà popolare all'altra forza che ha qualche numero in più, ha un dovere nei confronti del Paese. Non serve il governissimo, l'ammucchiata, tutti insieme. Si può condividere le priorità stando ciascuno nella propria collocazione. Un sì o un no? Quindi governo di minoranza sostenuto magari anche dal PDL? Ma io credo che questa sia una ipotesi ragionevole che dà anche maggiore forza alla condivisione delle priorità, perché nel momento in cui non si rispettassero le priorità condivise, verrebbe tolta la spina. Se invece si producesse l'ammucchiata, in quel caso si affermerebbe l'egoismo della politica e la tendenza a preservare una situazione che non genererebbe fattori positivi per il Paese. Ultima domanda che le faccio, visto che siamo nella settimana decisiva, sarà Romano Prodi il prossimo Presidente della Repubblica? Questo non sono in grado di poterlo dire. Io mi auguro che il Presidente della Repubblica, qui sì, ci deve essere espresso da una volontà la più ampia possibile. Però guardi Bubico, abbiamo 40 secondi, dato che ormai stanno tutti uscendo allo scoperto, a lei Prodi andrebbe bene, le piacerebbe come Presidente della Repubblica? A me personalmente va bene Prodi, vanno bene altri nomi. Credo che debba andare bene alla stragrande maggioranza dei grandi elettori. Ah, non si scopre. No, mi auguro che il presidente eletto sia l'espressione di una condivisione delle grandi forze politiche e parlamentari. Ma c'è guerra su Prodi all'interno del PD? No, non mi pare. Da parte del PD c'è lo sforzo per costruire le condizioni di una condivisione vera con il PDL. Grazie Bubico, grazie Gianmarco Ferronato, Franco Piantanida, Alessandro Marcutulli, grazie a tutti voi per l'ascolto, ci sentiamo domani. Ricordati! Mancano 76 giorni all'aumento dell'IVA. Però a me mi sembra che questi partiti qua, tutti e tre, stanno giocando con le figurine. Te ne do due, me ne dai una, te ne do tre, te ne do due. Che la piantano e dire, lei non siamo qui mica a vendere le noccioline. Voi siete lì per noi, non per voi.